tra un cavallo e una formica c'è la mia vita, sopra un campo aperta allo sguardo del mondo, tempeste che portano le guerre e imbroglio questo tempo che mi gira intorno, cambiando un vestito, il colore, il mio sguardo, e affondo i piedi come un soldato e questa marcia mi porta a una notte che arriva, a una notte che arriva. Cosa posso tenere nelle braccia? Ho ancora forza e coraggio, tanto coraggio, e affondo i piedi come un soldato e questa marcia mi porta a una notte che arriva, a una notte che arriva. Cavallo e una formica, c'è la mia vita.